Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Michele in regia. Ciao Michele, grazie per il supporto questa sera. In Buonasera, ciao. collegamento Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa, buonasera Michele e ai nostri amici radioascoltatori. Dunque, Alessandra, una Giro di Boa sempre, come sempre, al passo con l'attualità. Nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto, abbiamo parlato di Libia, prima che diciamo, iniziassero gli scontri tra le forze fedeli al colonnello Gheddafi e i ribelli che invece combattono per rovesciare il regime. Questi scontri ora continuano, così come continuano i raid aerei mirati contro gli obiettivi militari del colonnello Gheddafi dopo che la NATO ha assunto il comando delle operazioni lo scorso 31 marzo, allo scopo di implementare la risoluzione ONU 1973, una risoluzione che autorizza l'imposizione di una no-fly zone sulla Libia e di tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile. Quanto potrà durare ancora l'operazione della NATO? Quali sono gli scenari possibili in Libia? Ne parliamo questa sera con due ospiti, con il primo che dovrebbe essere già in collegamento. Alessandra, ti passo la parola per presentarlo. Esatto, Annalisa, il primo è già in collegamento da Roma con noi. Corrado, ci senti? Eccomi, buonasera a voi. Buonasera Corrado, grazie per la tua disponibilità. Corrado è un amico di Giro di Boa, si tratta di Corrado Accoputi, i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, già intervenuto diverse volte in materia di difesa e di esteri. Corrado è dal 2002 giornalista professionista, si occupa appunto di difesa nelle relazioni estere. Attualmente lavora per l'agenzia di stampa TM News. Segue spesso il ministro La Russa nei suoi viaggi, come ad esempio all'ultimo consiglio della NATO sull'intervento in Libia che si è tenuto a Bruxelles alcuni giorni prima il passaggio del comando dell'operazione alla NATO. Dunque, Corrado, partirei subito con una domanda facendo riferimento a quanto diceva prima Annalisa. Annalisa ha incominciato parlando di uno scontro fra il colonnello Gheddafi e i ribelli. Io mi pongo la domanda, chi sono questi ribelli e soprattutto li conosciamo? E sono un'unica entità oppure sono di diverse tribù e dunque non è un fronte unitario? Faccio questa domanda semplicemente perché sembrerebbe, a semplificare un po' le cose, che i ribelli siano i buoni e Gheddafi l'altra parte. Addirittura c'è Hillary Clinton che vorrebbe dare delle armi ai ribelli. Per cui ecco, chi sono questi ribelli? Ma allora, non è facile dirlo, nel senso che al momento diciamo, sono alcuni fuoriusciti dal regime di Gheddafi, che raccolgono però anche esponenti della società civile. Mi riferisco ad esempio alle parole proprio di ieri del segretario di Stato USA Hillary Clinton, che non ha parlato di militari veri e propri, ma di avvocati, medici, professori universitari che hanno impugnato le armi per cambiare le sorti del loro paese. Certo non è facile come dire, conoscere alla perfezione la galassia dei ribelli di Bengasi. Quello che si può dire è che certamente si tratta di una parte importante della popolazione stanca delle vessazioni. Io aggiungerei sempre presunte, perché sappiamo, tutti indichiamo in Gheddafi, nel colonnello Gheddafi, il dittatore brutto e cattivo, però ecco, finché appunto non ci sarà poi un tribunale, presumo internazionale, che ne possa giudicare gli atti, io andrei sempre con i piedi di piombo, per quanto ci sono le notizie, insomma, e anche immagini che certificano alcune oscenità fatte sotto il suo regime. Tornando ai ribelli, La cosa che vorrei dire è che anche gli alleati non hanno, secondo me, ancora un'idea precisa di quella che è la galassia dei ribelli, tant'è vero che qualcuno comincia a ipotizzare che ci siano delle infiltrazioni anche di sospetti estremisti di Al-Qaeda all'interno dei ribelli. Lo stesso Consiglio Nazionale di Transizione, la sua composizione non è nota a tutti, alcuni dei suoi esponenti sono nomi, hanno anche, diciamo, come dire, una certa rilevanza a livello della diplomazia internazionale, ma ad esempio non si conoscono quattro di questi esponenti del Consiglio Nazionale, e qualcuno dice che tra questi quattro, di cui non è stato diffuso il nome, possa esserci anche un rappresentante degli estremisti islamici. Insomma, quindi, come vedete, non è facile dire che in che modo si compone la galassia dei ribelli. Di certo è un insieme di persone della società civile libica stanca delle vessazioni di Gheddafi. Dunque, difficile anche capire se sono degli interlocutori credibili o meno, anche se in realtà, se non ricordo male, l'Italia ha comunque cominciato a prendere contatti con... L'Italia non solo ha preso contatto con i ribelli, ma è stato il terzo paese, dopo la Francia e il Qatar, a riconoscere il Consiglio Nazionale di Transizione di Bengasi, quindi, diciamo, è stato fra i primi a compiere questo passo ufficiale. Però è vero quello che dici tu, non è facile capire se si tratta di interlocutori credibili, tanto più che proprio di oggi, ad esempio, la notizia, che ovviamente viene riferita da fonti diplomatiche anonime, secondo le quali l'Europa e gli Stati Uniti sarebbero disposti ad aiutare questi ribelli, ma una volta assodata la loro buona fede, la buona fede delle loro aspirazioni democratiche. Quindi, come vedete, come dire, ancora oggi c'è qualcuno che dubita su quello che poi potrà essere il futuro della Libia. Corrado, ti vorrei chiedere un commento sulla situazione sul campo, quindi le forze del colonnello Gheddafi che si sono dimostrate forse più tenaci e resistenti di quanto ci si aspettava. Si parlava della galassia dei ribelli, del fatto che sicuramente non sono sufficientemente armati. Quindi, qual è la situazione sul campo, quali sono gli scenari possibili a questo punto e quando, secondo te, la NATO potrà dichiarare missione compiuta? I ribelli, è vero, sono male armati, hanno ricevuto un addestramento di pochi giorni, è una compagine formata da persone che si sono improvvisate militari, hanno poche armi, pochi carri armati e non hanno un coordinamento militare, per quanto siano guidati da due ufficiali fuoriusciti dall'esercito di Gheddafi. L'esercito di Gheddafi a sua volta invece può contare su una struttura migliore, su un'organizzazione migliore, su un armamento decisamente migliore, e ho l'impressione che negli ultimi giorni stia anche cambiando strategia e impostando la propria azione in maniera, diciamo, migliore anche in questo caso, ma dal proprio punto di vista, perché mentre prima dell'intervento della NATO lo scontro era, come dire, diretto, cioè le truppe di Gheddafi contro i ribelli libici, adesso la tattica dei militari di Gheddafi è quella di nascondersi tra la popolazione civile per evitare che possano essere fatti oggetto dei raid aerei della NATO. E infatti non è un caso che negli ultimi giorni si sono ripetute le notizie di presunto coinvolgimento e di civili e dei ribelli libici nei raid compiuti dalla NATO, ad esempio su Brega o su Addis Abeba, notizia di oggi. quindi c'è stato un cambiamento di tattica da parte delle truppe di Gheddafi, che rende molto più difficile l'operazione della NATO, e questo, diciamo, in qualche modo ha una sua conseguenza anche nella durata della missione, perché la situazione diventa più complicata, non sempre si possono colpire gli obiettivi che si è prefissati. Per i tempi io direi che starei sulla linea dei britannici, ovvero 6 mesi di missione per poter dire siamo arrivati al punto in cui volevamo arrivare. C'è anche da dire una cosa, che molti dei paesi che compongono l'alleanza che è intervenuta in Libia hanno delle difficoltà economiche legate alla crisi internazionale dell'ultimo anno e mezzo. E questo cosa significa? Significa che sono stati tagliati i bilanci per la difesa, per l'ammodernamento e l'armamento degli aerei. Non è un caso che Londra, ad esempio, ha già detto che oltre i 6 mesi questa missione non potrà più andare, perché mancheranno i fondi, servirà un rifinanziamento che il governo non è, come dire, non è disposto ad offrire. Corrado, ma qual è il punto a cui si vuole arrivare? Hai parlato di 6 mesi per arrivare al punto in cui si vuole arrivare, è il cambiamento di regime. Il riferimento come dire esplicito è quello della piena applicazione della risoluzione 1973 che citavate prima delle Nazioni Unite. È evidente che l'obiettivo principale, prioritario, che è anche quello che è emerso poi dall'ultima riunione che è stata fatta a Londra, è quella di un cambio di regime. Ancora ieri sia la Clinton che Frattini, che è andato a Washington, hanno ribadito che l'obiettivo è quello che Gheddafi se ne deve andare. Oggi è intervenuta la Turchia con il suo ministro Erdogan, che ha chiesto a Gheddafi di farsi da parte. Insomma, l'appello è sempre quello. Il problema è capire come lo si possa fare. A mio avviso, diciamo, più che con l'intervento della NATO, Gheddafi lo si può mandare via facendolo implodere, cioè con un intervento dei libici stessi, che adesso siano i ribelli o, come io invece ritengo più probabile, qualcuno del suo entourage, che alla fine di tutta questa grossa vicenda si stancherà e proverà a tradire il Rais. Ecco, questo è da vedere, però certamente, diciamo, l'obiettivo è che si arrivi ad una svolta, e questa svolta è sicuramente l'addio a Gheddafi e anche alla sua famiglia. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che due dei figli di Gheddafi, tra cui Saif, si erano detti disposti a negoziare la fuoriuscita del padre e la gestione del potere in un periodo di transizione da parte loro. Beh, questa evidentemente, diciamo, non è una soluzione che né i ribelli né la comunità internazionale possono accettare. Corrado, qual è la posizione, il ruolo dell'Italia all'interno di questa coalizione e alleanza? L'Italia, che come ben sappiamo non era stata invitata alla famosa conference call che c'è stata alcune settimane fa, senza dimenticare poi il cosiddetto protagonismo di cui è stato tacciato Sarkozy per aver essere stato così irruento. Fra le altre cose, dicevi in apertura che tu hai seguito il ministro La Russa a Bruxelles al Consiglio NATO. Che ruolo riveste l'Italia, e soprattutto dobbiamo considerare il fatto di non essere stati invitati alla conference call come un punto negativo, o semplicemente non dobbiamo dare importanza a questa cosa? Dunque, io distinguerei due piani, il piano della diplomazia da quello strettamente dell'intervento militare. Per quanto riguarda l'intervento militare, direi che l'Italia sta facendo la sua parte, diciamo, come gli altri alleati sin dall'inizio, cioè sin da quando la NATO non era ancora stata chiamata a intervenire e si era andati in Libia con quella famosa coalizione di volenterosi, e l'Italia ha messo a disposizione le sue basi, ha messo a disposizione una certa tipologia di aerei, per quanto la Presidenza del Consiglio abbia specificato che fino adesso, diciamo, i nostri aerei non hanno mai bombardato, beh, comunque sono degli aerei che sono perfettamente in grado di colpire degli obiettivi sensibili con i loro missili. Quindi direi che da un punto di vista strettamente militare l'Italia ha fatto bene la sua parte e continua ancora a farla oggi con gli aerei, le navi e così via. Invece da un punto di vista diplomatico io, come dire, tendo ad essere un po' più critico. In Italia direi che c'è stato un attendismo mascherato da multilateralismo per certe decisioni dell'Unione Europea che non sono mai arrivate. E così l'Italia sostanzialmente è stata costretta a rincorrere la posizione, ad esempio, della Francia che tu citavi giustamente prima, in ultimo ad esempio anche proprio sul riconoscimento del Consiglio Nazionale Provvisorio di Bengasi di cui parlavamo prima. Ci sono state delle contraddizioni, ricordo ad esempio che appena il 10 marzo scorso il ministro Frattini aveva criticato la posizione del governo francese che appunto si era appena pronunciato per il riconoscimento del Consiglio di Bengasi, disse che l'Italia avrebbe riconosciuto solo stati, non governi o gruppi che si erano autoproclamati e che invece doveva essere appunto l'Europa a prendere una decisione politica. Beh, questo in realtà non è accaduto, anche se poi in 20 giorni sono cambiate molte cose e anche il governo italiano ha modificato la sua posizione. Adesso appunto Frattini ad esempio ha potuto dire che l'Italia, così come tutta l'Europa, ha sbagliato nel ricercare per anni partenariati di convenienza con i regimi del mondo arabo e con quello libico in testa. Per quanto riguarda invece la call conference a cui facevate cenno, beh, io direi che per quanto, diciamo, gli esponenti del nostro governo abbiano provato a tenere bassi i toni, è certamente un fallimento della nostra diplomazia. Non essere invitati a una discussione fra i leader europei e gli Stati Uniti significa comunque rimanerne fuori, cioè il dato politico non è che loro non, durante la conference call non si siano detti nulla di importante come hanno sostenuto i nostri governanti, il dato politico è che a prescindere dalle cose che si sono detti noi non c'eravamo. Corrado, vorrei ritornare sul tema che abbiamo sollevato in precedenza sulla possibilità di fornire armi ai ribelli. Appunto il segretario di Stato Clinton ne ha parlato, pare che abbia addirittura detto che questo sarebbe secondo gli Stati Uniti possibile senza una nuova risoluzione dell'ONU. Ecco, insomma, ti vorrei chiedere la tua opinione da questo punto di vista, insomma, secondo te sarebbe possibile farlo senza una nuova risoluzione, e poi da un punto di vista pratico come far arrivare le armi ai ribelli? Guarda, io credo di no, nel senso che intanto anche su questo ci sono delle divisioni, se Francia, Gran Bretagna e in parte anche gli Stati Uniti si sono detti come dire favorevoli, comunque hanno mostrato un'apertura verso questa soluzione, l'Italia non l'ha escluso, ci sono però dei paesi che sono profondamente contrari, la Russia ad esempio e la Cina, che sono peraltro, ricordo, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Secondo me, cioè io concordo con chi sostiene che per fornire armi ai ribelli bisognerebbe intanto conoscerli bene, e come dicevamo prima questo al momento, diciamo, non avviene ancora. E poi bisognerebbe approvare una nuova risoluzione dell'ONU, perché è vero che con la risoluzione 1973 si autorizza a fare sostanzialmente di tutto per proteggere la vita dei civili, ma tra tutte le i provvedimenti che sono stati presi fino ad ora c'è sicuramente quello dell'embargo sulle armi, e l'embargo sulle armi dovrebbe valere sia per ovviamente le truppe di Gheddafi, ma anche per i ribelli, perché altrimenti c'è una, come dire, presa di posizione esplicita sul terreno, che però poi non corrisponde a quella verbale. Intendo dire, se gli americani autorizzano il trasferimento di armi a Bengasi, danno un appoggio sostanziale, di sostanza, a questi ribelli, però poi devono anche riconoscere il Consiglio Nazionale di Transizione, che al momento invece non sono disposti a farlo. Quindi secondo me al momento, diciamo, questa è un'ipotesi che andrebbe ancora studiata. Corrado, lo citavi tu prima, il fatto che, rispondendo ad una delle domande di Annalisa, che il colonnello, bisogna trovare una via di uscita per il colonnello, nel senso che viene richiesto da più parti che deve lasciare. Ci sono dei, per così dire, rumeurs, che probabilmente sono anche veri, che ci sono dei giochi diplomatici che stanno avvenendo. Secondo te ha senso, o comunque avrebbe senso, che la Turchia giocasse un ruolo predominante in questo? E secondo te, se non la Turchia, chi altro? E un'ultima cosa. Recentemente Frattini ha rilasciato un'intervista alla BBC in cui diceva che lui avrebbe visto Gheddafi andare in esilio in un stato africano. Secondo te questo è fattibile oppure no? Sì, la risposta alle domande è sì per entrambe. La Turchia può certamente giocare un ruolo di primo piano, sebbene al momento ovviamente sia stata esclusa, come l'Italia, diciamo, da quella famosa conference call a cui io attribuisco un'importanza maggiore di quella che effettivamente viene attribuita dal nostro governo. Però la Turchia, per la sua posizione, per la sua tradizione, per la sua religione, è certamente un paese che può giocare un ruolo di primo piano. Oggi Erdogan ha chiesto ufficialmente alle truppe di Gheddafi di togliere dall'assedio che è stato posto ad alcune città in cui si trovano i ribelli, e ha parlato, seppure senza, diciamo, fornire precisazioni, di una roadmap turca, e quindi immagino che di uscita dalla crisi, immagino che nei prossimi giorni ne sapremo di più. Però certamente la Turchia può e deve giocare un ruolo di primo piano. L'altro, secondo me, il ruolo fondamentale però ce l'avrà l'Unione Africana, che al momento è entrata in gioco solo parzialmente. Ricordo che c'è stata un'assenza polemica da parte dell'Unione Africana al vertice di Londra, e questo non è certamente un segnale positivo, ma l'Unione Africana può essere, secondo me, decisiva, purché trovi la legittimazione da parte di tutti e in maniera convincente. Uno dei paesi dell'Unione Africana può certamente essere la nuova casa di Gheddafi. Frattini ha detto che tramite l'Unione Africana sono stati allacciati dei rapporti diplomatici in modo tale da poter lavorare su questo. Si fanno già ad esempio alcuni nomi di stati, ovviamente in primis quello dello Zimbabwe, di Mugabe, che non mi sembra una soluzione francamente ottimale, però ecco, sicuramente se c'è un'area, una zona diplomatica che può esercitare un ruolo di primo piano, un ruolo vincente, questo è certamente quello dell'Unione Africana, e non è un caso che i francesi stiano facendo pressioni per convincere l'Unione Africana a presenziare la prossima settimana al vertice del gruppo di contatto in Qatar, che che sarà a Doha il 13 di aprile. Ecco, una partecipazione dell'Unione Africana in Qatar sarebbe certamente un segnale positivo, perché significherebbe un coinvolgimento diretto dell'Unione Africana per la mediazione, sulla crisi. Corrado, siamo ormai arrivati in conclusione, per cui se Annalisa, ci sono domande dallo studio? No, io non ho più domande dallo studio, grazie. Dunque, non ci resta che salutarti, ma soprattutto di ringraziarti per il tuo interessante contributo e augurarti buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Buona serata. Contributo, alla prossima. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo, cari radioascoltatori, a trattare il tema di questa sera. Stiamo parlando di Libia, in Libia dove continuano gli scontri tra le forze fedeli al colonnello Gheddafi e i ribelli che combattono per rovesciare il regime, mentre continuano i raid aerei mirati contro gli obiettivi militari del colonnello Gheddafi dopo che la NATO ha assunto il comando delle operazioni lo scorso 31 marzo. Allo scopo di dare attuazione alla risoluzione delle Nazioni Unite 1973. Quali sono gli scenari possibili in Libia? Continuiamo dunque la discussione di questa sera con il secondo ospite. Alessandra, ti passo la parola per presentarlo ai nostri radioascoltatori. Sì, il nostro secondo ospite è già in collegamento telefonico con noi. Si tratta dell'onorevole Antonio Panzeri. Onorevole, ci sente? Sì, buonasera. Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Dunque, l'onorevole Panzeri, già segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, è attualmente al suo secondo mandato al Parlamento europeo, dove aderisce al gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti Democratici. Membro della Commissione Affari Esteri e anche presidente della Delegazione per le Relazioni con i Paesi del Maghreb. Onorevole, partirei subito da questa presentazione per fargli una domanda. Lei, essendo Presidente della Delegazione per le Relazioni con i Paesi del Maghreb, immagino abbia viaggiato nei Paesi del Maghreb e dunque anche in Tunisia e in Libia. Degli eventi degli ultimi mesi. Le è per caso capitato di viaggiare alla fine del 2010 e, se sì, che situazione ha trovato? Soprattutto mi riferisco alla Libia, e quali erano i suoi interlocutori? Beh, sì, in Libia ci sono stato qualche mese fa, prima che avvenisse sostanzialmente il sommovimento che attualmente è in atto. Ho trovato una situazione oggettivamente confusa per il fatto che eravamo siamo in presenza di un paese che effettivamente non conosce l'elemento fondamentale che si chiama democrazia, per cui oggettivamente una situazione complicata e difficile, e era da mettere in preventivo che ciò che è avvenuto poi in Tunisia e negli altri paesi in qualche modo avrebbe coinvolto anche la Libia da questo punto di vista. E certo è che poi ci sono le differenze che bisognerà oggettivamente fare tra ciò che sta avvenendo in Tunisia, ciò che è avvenuto in Egitto e ciò che attualmente sta avvenendo in Libia. Però io ho trovato questa situazione molto difficile e confusa, forse in qualche modo un preludio a ciò che poi è avvenuto. I suoi interlocutori in quel frangente era l'attuale regime del colonnello, immagino. Sì, era il Consiglio del Popolo, ovviamente, quindi il responsabile del Consiglio del Popolo, e poi il Ministro degli Affari Esteri di un governo inesistente, perché come si sa, nella vicenda libica pesava molto il colonnello Gheddafi, pesa molto il Consiglio del Popolo, e tutto il resto è un po' una sorta di comparsa. Onorevole, le vorrei chiedere un commento sul ruolo giocato fino ad ora dall'Unione Europea nella crisi libica. Come dicevamo nella prima parte della trasmissione, l'argomento di cui abbiamo parlato anche con il primo ospite, quindi comando militare dell'operazione preso dalla NATO lo scorso 31 marzo. Secondo lei si potrebbe dire che quanto avvenuto abbia forse decretato la fine di ogni ambizione dell'Unione Europea di condurre operazioni militari di una certa intensità nell'ambito della politica di sicurezza e difesa? Si potrebbe dire che quanto è avvenuto forse rafforza un po' la tendenza per cui alla NATO andranno le operazioni militari e all'Unione Europea le operazioni umanitarie, le operazioni di ricostruzione? Ma direi che un po' questa è la fotografia odierna, ma io mi auguro ovviamente che evolva in un modo diverso da quello che lei ha disegnato. Ovviamente noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo nel momento in cui abbiamo mandato in porto il Trattato di Lisbona, che conferisce finalmente un potere nuovo all'alto rappresentante per la politica estera. Tuttavia questo potere si può esercitare se tutti i paesi convergono con l'idea di cedere questa sovranità. Parlo della politica estera, parlo della politica militare, parlo anche della politica dell'immigrazione a un'entità che si chiama Europa, perché se ogni paese continua ad agire in modo proprio è difficile che noi si possa avere una performance davvero positiva a livello europeo. E tuttavia bisogna spingere in questa direzione, avere un'Europa che parla con una voce sola, costruire le condizioni, seppure difficili, perché ci sia un esercito europeo e ovviamente far giocare il ruolo da protagonista all'Europa. In questa vicenda le lezioni che dobbiamo apprendere sono queste: più l'Europa è divisa e più gioca un ruolo subalterno rispetto alle altre realtà, e più l'Europa è divisa e più appunto si costruiscono le condizioni perché ci sia una coalizione di volenterosi. Ma noi non abbiamo bisogno di coalizioni di volenterosi, ma bisogna di una coalizione europea che svolga fino in fondo questo ruolo. Per cui certo, lei fotografa la situazione, ma io dico che è necessario che si spinga perché l'Europa assuma questo nuovo protagonismo. In un editoriale che lei, onorevole, ha scritto alcuni giorni fa, lei concludeva scrivendo: da qui l'urgenza di comprendere ciò che sta avvenendo in tutto il Mediterraneo ed elaborare una nuova e compiuta strategia. Secondo lei l'Europa è in una posizione per riuscire a comprendere realmente quello che è successo nell'altra sponda del Mediterraneo, oppure sarà una comprensione solo parziale? Non posso nascondere che c'è un oggettivo conflitto attorno a questa consapevolezza, alla necessità di avere questa consapevolezza. C'è una parte della classe dirigente europea che è convinta che il nostro ruolo strategico sarà giocato sempre di più sulla sponda sud, e c'è una certa resistenza, soprattutto da parte dei paesi nordici, dei paesi dell'est, guidati un po' dalla Germania e dal Regno Unito, che sono restii, non propensi a spendersi fino in fondo in questo ruolo strategico. Secondo il mio punto di vista, non comprendendo fino in fondo che ciò che sta avvenendo nel Mediterraneo non cambierà solo quei paesi, ma cambierà anche l'Europa. E prima ci accorgiamo di questo, meglio sarà per tutti. Prima saremo in grado di mettere in campo una politica strategica, generosa e anche creativa nei confronti del Maghreb, del Mashrek, insomma di tutti i paesi nordafricani, e meglio sarà, perché rischieremo di pagare un prezzo molto più alto se non faremo questo in questo momento. E secondo lei quali potrebbero essere gli attori principali di questa strategia dal punto di vista europeo? Ma intanto, se parliamo della vicenda libica, è necessario che accanto all'Europa ci si accompagni con un'azione, con la Lega Araba e con l'Unione Africana, per fare in modo che la situazione di stallo che oggi sembra presente sul campo porti alla necessità di avere una mediazione che ovviamente deve prevedere una Libia unica e non divisa, e ovviamente con la fuoriuscita del colonnello Gheddafi, e bisogna lavorare per questo obiettivo. Se invece ci riferiamo all'area più vasta, cioè all'intero Mediterraneo, allora bisogna assolutamente qui riqualificare le politiche di cooperazione economica e finanziaria, In questo devono giocare un ruolo importante tutti i paesi rivieraschi nel far comprendere che lì si giocherà un pezzo del futuro dell'Europa. A livello diplomatico vede un ruolo importante per la Turchia nei prossimi mesi? La Turchia è diventata una grande potenza regionale e senza dubbio ha acquisito un grandissimo potere che sta esercitando. Penso che sia diventata anche un punto di riferimento rispetto al possibile sbocco che i processi democratici che ci sono aperti in questi paesi potranno avere. Quindi senza dubbio la Turchia gioca un ruolo importante, come abbiamo visto insieme al Brasile nella vicenda iraniana, ha giocato un ruolo importante, vuole giocare un ruolo importante nel conflitto medio orientale e intende essere un punto di riferimento rispetto alle rivoluzioni che si stanno determinando nei paesi nordafricani. Rimane ovviamente un problema aperto con la Turchia ed riguarda il suo sbocco europeo. Anche questo è un tema che dovrà essere discusso il più velocemente possibile. Non so se la Turchia oggi è nelle stesse condizioni di qualche anno fa quando chiedeva di entrare in Europa, ma in ogni caso l'Europa deve fornire delle risposte alla Turchia e prima lo fa meglio. Onorevole, vorrei ritornare sul ruolo dell'Unione Europea. Come altri casi insegnano, la gestione post-conflitto sarà ovviamente più cruciale per il futuro della Libia, degli scontri stessi, stabilire istituzioni democratiche, organizzazione di elezioni, ricostruzione. Secondo lei quale ruolo può giocare l'Unione Europea? Unione Europea che, se non sbaglio, così è stato riportato dai media negli ultimi giorni, c'è stata anche una missione, una delegazione UE guidata da Agostino Miozzo del corpo diplomatico di Catherine Ashton, che si è recato a Bengasi per avere colloqui con i rappresentanti dell'opposizione e del Consiglio nazionale di transizione. Può giocare un ruolo importante, purché comprenda fino in fondo che questo ruolo lo può giocare. Lo può giocare, come dicevo prima, mettendo a disposizione una politica generosa dal punto di vista delle risorse finanziarie, aggiuntive a quelle già preventivate, che possono rispondere positivamente ai problemi che questi paesi hanno. Le faccio un esempio della Tunisia, che è un paese che si presta più di altri a portare a compimento un esito positivo della rivoluzione che si è sviluppata in quel paese, e però su questo è necessario, ad esempio, arrivare a avere un rapporto senza ingerenze, ma con questo paese, mettendo in campo davvero grandi disponibilità. Io personalmente penso che, ad esempio, nei confronti della Tunisia sarebbe di grande utilità aprire uno spazio per avere una sorta di statuto avanzato sul facsimile di quello che l'Unione Europea ha con il Marocco. Lo dico perché i processi democratici si sostengono ovviamente se si costruiscono le forme democratiche, i partiti, se si dà sostegno alla società civile, ma anche, scuso la rozzezza ma voglio farvi comprendere, se si riempie la pancia della rivoluzione. E nel momento in cui la Tunisia, ad esempio, sta avendo una situazione di grande crisi per causa del turismo, per la crisi economica e finanziaria che ovviamente interessa anche in quei paesi, per la situazione difficile dovuta al fatto che la famiglia Ben Ali ha drenato un sacco di risorse economiche e finanziarie, e noi dobbiamo accompagnare questi processi con risorse finanziarie, aiuti e sostegno ai processi democratici, assistenza fino in fondo a far sì che questi processi giungano all'obiettivo positivo. Sono stati citati Tunisia e Libia. C'è un grande paese a fianco alla Tunisia che non abbiamo citato. Si tratta dell'Algeria, che senz'altro fa parte del Maghreb. Lei in apertura diceva che quando una delle ultime volte che si è recato in Libia aveva si poteva capire che il regime era arrivato ad una fase magari conclusiva, o magari ce lo si augurava. È stato di recente in Algeria e ha avuto la stessa impressione? Per quanto riguarda l'Algeria, io penso che prima o dopo questo tema si aprirà. Noi dobbiamo sapere che nel Nord Africa avremo una varietà di risposte. Come abbiamo visto, c'è stata una risposta tunisina, quella egiziana, c'è una risposta tutto sommato libica, anche se molto ma molto complicata, c'è una risposta per quanto riguarda la Siria, le conclusioni non sono determinate a prescindere, e in ogni caso anche l'atteggiamento delle classi dirigenti sarà diverso. Vedo ad esempio che Mohamed VI in Marocco credo abbia compreso fino in fondo sulla necessità di invertire la rotta e di procedere con riforme profonde per contribuire alla realtà marocchina. Non c'è questa adeguata consapevolezza della classe dirigente algerina. In quella situazione ci sono state una serie di manifestazioni soffocate, perché come si sa c'è uno stato di emergenza che è dal 92, uno stato repressivo molto ma molto forte, ma è indubbio che nel momento in cui il paese vicino come la Tunisia o altri paesi porteranno a compimento questo processo, sicuramente non solo per fatti imitativi si determinerà anche una scossa in una realtà come quella algerina. Onorevole, io ho un'ultima domanda da parte mia qui dallo studio di Bruxelles. Le vorrei chiedere una sua valutazione sul ruolo giocato dall'Italia nella crisi libica, un'Italia che sicuramente all'inizio, quando sono scoppiate le prime manifestazioni contro Gheddafi, ha avuto un atteggiamento un po' più cauto rispetto ad altri paesi, un'Italia che ora però ha riconosciuto il Consiglio Nazionale di Transizione come unico legittimo interlocutore. Insomma, come vede il ruolo del nostro paese e come vede la politica estera del governo nei confronti della crisi libica? No, senta, io credo che ci sia stato oggettivamente un po' uno stato confusionale iniziale e ha determinato grandissime incertezze. Probabilmente non pensavano che si determinasse questa situazione. Devo dire con molta sincerità che la cosa che colpisce in tutte queste vicende nordafricane è l'assenza di informazioni adeguate. È come se i terminali diplomatici e l'intelligence non siano stati utili alle cancellerie europee. E in questo ovviamente anche l'Italia ha avuto questo grande problema. Aggravato dal fatto che ci sono stati incertezze di natura politica, si è perso molto tempo, si è arrancato, salvo poi correre in una maniera un po' scomposta per tentare di recuperare, di prendere una posizione relativamente alla Libia, dove, come si sa, il nostro paese ha degli interessi molto forti dal punto di vista energetico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista infrastrutturale. Ora si tratta, da questo punto di vista, di ricollocare la politica estera italiana nel solco di una politica estera europea. Io mi auguro che anche qui venga compresa la lezione che da soli si fa ben poco, e se invece c'è un rapporto diverso con l'Europa, probabilmente anche la politica estera italiana può svolgere un ruolo di primo piano, non consegnando, come abbiamo visto, alla Francia o al Regno Unito le operazioni che sono state fatte, oppure in qualche modo polemizzando con l'Europa. C'è bisogno di un rapporto produttivo, positivo, per risolvere la vicenda libica e per risolvere un grandissimo problema che comunque l'Italia ha di fronte, che non solo l'Italia ma l'Europa ha di fronte, che riguarda il processo migratorio. Onorevole, siamo arrivati in conclusione, dunque per concludere le volevo fare un'ultima domanda, che è un po' una provocazione. Alcuni giornalisti hanno scritto che vi è stata la fine dei dittatori ma non delle dittature, nel senso che denunciano che magari in realtà le rivoluzioni non andranno nella direzione sperata dai popoli. Lei domani sera, se non sbaglio, è invitato ad un incontro pubblico dal titolo La difesa dei diritti verso la democrazia nel Nord Africa e nel Mediterraneo. Dico il vero? Sì, mi trovo alla Spezia domani per questo convegno, sì. Esatto. Dunque, il titolo di questo incontro pubblico mi sembra particolarmente interessante. Lei crede veramente che sia giunto il momento di una democrazia nel Nord Africa e nel Mediterraneo, nella sponda sud del Mediterraneo? Guardi, è giunto il momento del cambiamento. Questi processi non sono mai lineari e vanno monitorati costantemente, perché il rischio di derive di questi processi, stiamo parlando di paesi che non sono stati, lo metto tra virgolette, abituati alla democrazia, per cui anche maneggiare la democrazia diventa un problema per molti di queste nuove classi dirigenti. Le voglio fare un esempio per far comprendere che non c'è questa linearità. In Tunisia si sta discutendo della possibilità di includere nella nuova Costituzione il fatto che l'Islam sia una religione di Stato. E un'altra cosa che credo che Dio insegni un po' che ci possono essere delle contraddizioni. Il 1° aprile è stata approvata una legge in Tunisia nella quale sostanzialmente si dà la possibilità a chi lo vuole, alle donne, di mettersi il velo. Stiamo parlando di una realtà che sotto Ben Ali era profondamente laica e che vietava ad esempio ai partiti islamici di presentarsi alle elezioni. Credo che invece bisogna aprire certamente le elezioni a tutti, ma noi dobbiamo avere in qualche modo una grande presenza per far comprendere che i valori fondamentali, le libertà fondamentali sono un elemento essenziale per raggiungere l'obiettivo della democrazia in un paese come la Tunisia, ma così come in altri paesi, per cui non c'è linearità. Ovviamente convengo con chi dice che non basta il fatto di aver cacciato il dittatore per aver risolto il problema, c'è una strada lunghissima ancora da compiere. E allora noi le auguriamo buon lavoro e che abbia ad aiutare questi paesi della sponda sud del Mediterraneo a trovare la via d'uscita, ok? Grazie, farò quello che sta nelle mie possibilità e spero con tanti altri. Grazie onorevole Panzeri, un saluto dallo studio di Bruxelles e speriamo di averla presto ai nostri microfoni, buon lavoro. Grazie, buonasera a voi. Buona serata e buon lavoro. Dunque Alessandra, prima di dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla settimana prossima, vorrei annunciare un concerto che si terrà sabato 9 aprile qui a Bruxelles, al Var Capoun, Rue de l'École 76, 1080 Bruxelles, un concerto organizzato da Piola Libri e VK Concerts, che appunto presentano Africa Unite, Marichica Connection and Kiss and Drive, quindi questi gruppi che suoneranno sabato 9 aprile al Var Capoun qui a Bruxelles, Rue de l'École 76. A questo punto quindi non ci resta che salutare i nostri radioascoltatori e dare l'appuntamento alla prossima puntata di Giro di Boa alla settimana prossima. Buona serata a tutti. A risentirci.